E fuori discussione che i 10 comandamenti costituiscano il compendio della volontà di Dio, proprio perché sono un riassunto di ciò che Dio vuole dagli uomini, non è possibile trovare in essi una risposta ad ogni problematica della vita. E per questo che comandamenti come non ucciderai, non ruberai sono ampiamente ripresi da Dio quando sono calati nella quotidianità della vita. Se un uomo rubava di giorno vi era una pena, se rubava di notte ve n'era un'altra. Se qualcuno uccideva senza volere il suo prossimo, aveva la possibilità di rifugiarsi in una città. Se invece lo faceva intenzionalmente non vi era via di scampo, doveva essere ucciso. Pur mantenendo i principi di Dio, la nostra società si trova spesso in grande difficoltà ad affrontare certe situazioni sociali, proprio perché non ha mantenuto anche i particolari ai quali la legge di Dio si rifaceva. E, come nel caso del 7° comandamento, non commetterai adulterio. Questo comandamento non è sufficiente a risolvere tutti i problemi che sorgono all'interno del matrimonio, e cioè, se una coppia può divorziare, se un divorziato può risposarsi, se uno che si fosse separato e stia vivendo con un'altra donna, convertendosi, debba tornare dalla prima moglie, oppure no. Sono tante le opinioni dei cristiani in merito al matrimonio e al divorzio, ed io, pur ritenendo il matrimonio un impegno per tutta la vita, lascio alla coscienza altrui le proprie decisioni. Pur le riconoscendo che il comandamento di Dio in merito al matrimonio è insufficiente a risolvere tutte le situazioni matrimoniali ingarbugliate, meno, e per questo a volte vorremmo altre parole chiare e inequivocabili da parte di Dio, in mezzo a tante incertezze non possiamo nascondere un aspetto così lapalissiano da non poter essere ignorato. Nella parola di Dio è chiaro, senza ombra di dubbio, in che cosa consiste l'adulterio. Su questo non ci piove. Ecco cosa dice al riguardo la legge di Dio. Se uno commette adulterio con la moglie di un altro, se commette adulterio con la moglie del suo vicino, l'adultero, e l'adultera saranno messi a morte, Levitico 20.10. Si discute molto per sapere quando una relazione tra un uomo e una donna sia adulterio, e forse vi sono anche delle ragioni, ma comunque noi guardiamo il problema. Una cosa è sicura: l'adultero è colui che ha una relazione sessuale con una donna che appartiene ad un altro uomo, cioè a una donna sposanti con testamento A. Questo è il punto. A nulla servono le nostre argomentazioni per giustificare lecita una relazione sessuale con la moglie altrui. Poiché è così evidente che l'adulterio è contrario al volere di Dio e soprattutto che è l'unico peccato commesso contro il proprio corpo, perché allora un uomo credente o incredulo arriva ad essere adultero? Quali sono i meccanismi che portano un uomo a commettere adulterio? Sono indubbiamente tanti, ma vale la pena di esaminarne alcuni. Innanzitutto non bisogna fare di tutte le erbe un fascio perché vi è adultero e adultero. Come nel caso del furto e dell'omicidio, la legge di Dio distingueva le situazioni nelle quali avveniva, commutando pene diverse, così occorre fare differenza tra adultero e adultero. Lasciando da parte coloro che sono adulteri per il gusto di esserlo, a volte l'adultero diventa tale in un'occasione da lui non prevista. Pensiamo al re Davide, l'uomo secondo il cuore di Dio, il quale in un momento che neppure lui si aspettava vede una donna nuda che si lava e, colto dal desiderio, ha con lei una relazione sessuale. Il gesto è stato comunque deplorevole, non scusabile. Ma Dio ha tenuto conto delle situazioni e del suo cuore, infatti in seguito l'Eterno non lo ha fatto morire, anche se le conseguenze di questo gesto hanno avuto ripercussione su tutta la sua esistenza. Per alcune spose l'adulterio del marito costituisce la tomba del rapporto matrimoniale e per esse non vi è più ragione di perdono o di riconciliazione, soprattutto nell'ambito di chi ha una mente religiosa. Mi commuove tuttora la reazione di una sposa senza fede in Cristo, che ha sposato un figlio di una donna credente, uomo serio e coscienzioso. Essendo rappresentante, in uno dei suoi viaggi il figlio era stato sedotto da una donna con la quale aveva intrecciato una relazione sessuale. Essendo venuta a conoscenza del fatto, La moglie si confida con la suocera dicendo che voleva divorziare. La suocera gli chiese se lei avesse fatto tutto quello che era necessario per evitare che suo marito avesse una relazione sessuale extraconiugale. La donna, benché non credente, benché non fosse abituata a sentire dei sermoni sulla parola di Dio, si rese conto per lo Spirito Santo di essere anche lei responsabile in ciò che era successo, chiese perdono al marito e tuttora vive con lui un rapporto matrimoniale più intimo. Il fatto mi ha toccato perché vi sono spose cristiane che non sanno comprendere i loro errori e che davanti a una mancanza simile da parte del marito non riescono a comprendere la loro parte di errore. Comprendere i propri errori è un aspetto fondamentale per evitare che un partner diventi adultero. Quasi sempre l'adultero viene giudicato senza ombra di pietà, o se vogliamo dirlo in altri modi, senza attenuanti, e il coniuge tradito è sempre visto come la sola vittima. Ma le cose non sono sempre così. Anzi, spesso la moglie che agli occhi degli altri sembra la più virtuosa può essere la più colpevole. Mi viene in mente una scena del cartone animato Cenerentola, nella quale il gatto, cioè Lucifero, si sdraia ai piedi del cane Malachia dandogli una graffiata sulla faccia. Malachia, il cane, ovviamente reagisce con una ringhiata e Cenerentola, che non ha visto tutta la scena, sgrida Malachia e, facendogli la morale, gli dice che deve imparare ad amare i gatti. Povero Malachia! Aveva solo ringhiato, ma neppure quello gli era lecito. Così, se un uomo arriva ad essere adultero in modo inaspettato, spesso non ha neppure il diritto di ringhiare, perché per quanto faccia valere le sue ragioni, rimane agli occhi degli altri il solo colpevole. Eppure, una sposa virtuosa può nascondere insospettabili, odiose mancanze. Chi dice di credere nella parola di Dio non può dimenticare ciò che ha detto Gesù ai discepoli quando li mandò a predicare l'Evangelo. Dovunque entrate in una casa, fermatevi lì finché non partiate da quel luogo. Se poi alcuni non vi ricevono e non vi ascoltano, andando via di là, scuotete la polvere dai vostri piedi in testimonianza contro di loro. In verità vi dico che nel giorno del giudizio Sodoma e Gomorra saranno trattate con più tolleranza che quella città. Marco 6.1.0.1.1. Sodoma e Gomorra erano due città famose per la loro impurità sessuale, al punto che tuttora gli omosessuali vengono chiamati anche con il nome di sodomiti. Eppure la gravità dei peccati sessuali di queste città era considerata da Gesù minore rispetto a quella di coloro che non ascoltavano l'Evangelo. Noi abbiamo i nostri parametri per giudicare la gravità dei peccati, e quelli che ci toccano più da vicino, come l'adulterio e l'omicidio, ci sembrano i più gravi, ma vi sono altri peccati, come l'orgoglio e il risentimento, ben più odiosi per Dio, sebbene non siano visibili all'occhio umano. L'Apostolo Paolo disse: «Non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vu ingannate, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né gli omosessuali, né i ladri, né gli avari, né gli ubriaconi, né gli oltraggiatori, né i rapinatori erediteranno il regno di Dio». 1 Corinzi 6.9.10. Non solo gli adulteri andranno in perdizione, ma anche chi è avaro e ubriacone. Chi di noi ha questa opinione del peccato? Così, in cielo gli adulteri occasionali saranno più giustificati di spose insospettabilmente ingiuste. Per quanto se ne dica, il matrimonio regge ad un'altra condizione, e cioè che si impari a esprimere cose positive, a incoraggiare, a consolare, ad apprezzare il proprio partner. Tutti noi abbiamo un disperato e continuo bisogno di sentirci amati, e se a volte le normali e quotidiane faccende della vita non sono sufficienti per dimostrare l'amore, possiamo pur sempre ricorrere alle parole. Tutti abbiamo necessità di sentirci dire parole buone e incoraggianti, tra le quali spicca la fatidica frase «Ti amo o ti voglio bene». Ho letto in un periodico che, chiamato in giudizio in seguito alle denunce di 379 giovani donne alle quali aveva promesso di sposarle dopo averle seriamente compromesse, Il 35enne Meredith Jove di Milwaukee, nel Wisconsin, non ha negato le sue responsabilità. Alla richiesta di come avesse fatto ad ottenere un simile risultato, ha dichiarato che, per conquistarle tutte, aveva usato solamente una frase alla quale secondo lui non ci è donna al mondo che sappia resistere. Ancora nessuno ti ha mai compresa. E è vero, amare vuol dire comprendere, e per comprendere occorre amare. L'adultero non accorto generalmente è un uomo che non trova comprensione in casa e trova ciò che gli è lecito in luoghi non leciti. L'adultero che si trova tale all'improvviso generalmente non cerca la sessualità, ma la donna che riceva le parole di apprezzamento che lui desidera pronunciare. Ho conosciuto un marito che molto timidamente diceva a sua moglie «ti amo», fino a quando questa le rispose «smettila di dire delle sciocchezze». Sembra incredibile, ma vi sono spose autosufficienti che rifiutano una relazione basata sullo scambio di amore e di affetto, e così purtroppo mariti che non desiderano essere adulteri si trovano tali involontariamente. Quindi anche se un credente meno, che è un uomo come tutti gli altri uomini, meno, non volesse pensare all'adulterio, in mancanza di una relazione matrimoniale umana ci pensa per disperazione, e una simile tensione non onora né il matrimonio né Dio, tensione che prima o poi scoppia con la rottura evidente o nascosta del matrimonio. Quando cattolici, protestanti e ortodossi nella preghiera formulano la richiesta «Dio sia santificato il tuo nome», esprimono il desiderio di conformare il loro cammino al volere di Dio, ma è inutile chiedere a Dio delle cose se poi non siamo disposti ad ubbidire nella vita pratica. Così come è giusto prevenire piuttosto che curare, la moglie è chiamata a fare tutto il possibile perché il marito non diventi un adultero occasionale. E questo possibile è alla sua portata. Aprile 2006. Ellero.